attenzione che alla radice c'è qualcuno. Ora attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Ciao Gian, buonasera. Ui, ciao, Tani. Vabbè, tu mi raccomandi che anche tu non entrato. Ti ho sentito. Sono entrato. Ha parlato di familiari, non vogliono. Cosa vuoi? Dire di più, sappiamo che. Adesso Catania è scaduta l'impegnativa, ragazzi. Te l'immagino, adesso che avevo trovato un posto per fare quella visita. Cosa è successo? Che dura 10 giorni solo l'impegnativa, capito? Ed è scaduta. Ce l'avevo la visita per il giorno 7 a Porto Torres, però c'ho la cosa scaduta, perché mi scade il 5 e quindi non vale più l'impegnativa, capito? Ma io so che durava un mese la tariffa. No, no, questo è con la priorità breve, durano 10 giorni. E a me non te la puoi far rifare questa impegnativa. Ancora non mi ha risposto la dottoressa. Cara, ma come devo fartela scadere, boh? Già siamo buci vecchia. E che visita era questa che dovevi fare, la salita? Da un chirurgo vascolare devo andare. Ho capito. Vabbè, lo so che è così. Aspetti per fare la visita da lui che ti accorgi che non fa bene un casino. Vabbè, da. Sorvoliamo, che è meglio. Che piccina. Io adesso devo andare a dicembre a fare la visita al centro olimpico. Guardi, che sai che c'è che ballerina, da 86, poi sale a 180, a 170 e dopo va a 125, insomma è una ballerina. Sì, non è stabile, dai. A volte anche senza mangiare mi sale, ma te l'immagini, non l'ho mangiato nulla e mi è salita, buh, e non mi buh, non so che dire. Peggio. Purtroppo dobbiamo farci l'abitudine, dai. Queste cose, dove c'è la propagazione natale sull'11, ha sentito di splatter questo qui che arrivava fortissimo. E io vado a 555, ho collegato Manchester in Inghilterra stamattina. E io, vabbè. No, io la mattina non ne accendo, devo fare roba, devo pulire e fare. C'è tua moglie che ti fa le cose, ma io no. E cosa mi fa? Oh, via. Solo pulizia, va, tu l'altro un bozzino, no? E invece di tutto il poco. La mia casa è grande, vuole pulita tutta. Sono tutti a pulire bagni, tutto quanto, spolverare, fare, lavare in terra. Ci metti almeno 2 ore, se lo fai bene. Sì, lo so, purtroppo. Adesso sta parlando con la dottoressa mia moglie. Ha detto un attimo. E lo sentite, adesso la colpa del CUP. Del CUP, non ci sono disponibilità, non è colpa del CUP. Che seriale. Se ci sono tutti i posti pieni. Ma stiamo andando al catasfascio con la sanità. Non vi gioco più dottori, no. Guarda, è un casino sta succedendo. Sì, a me dillo. Tutti si stanno lamentando che non c'è un medico nei paesi. Se ne va il medico a pensione nei paesi che non hanno più dottori di famiglia. Io stavo cantando sino adesso, se mi sono sgolato bene, via. Io faccio compagnia a tutto il palazzo. Gianni, ci sei? Io già ci sono, sei tu che mi ha mollato, così. No, perché stavamo discutendo con la dottoressa, e premimi la voce sul cazzo della cosa, mamma mia. Perché finisce alle 7 di lavorare e me la lascia nella farmacia, lì così. Mia moglie va e la ritira, perché non me la può mandare via email. Perché è di quelle rosse. E infatti, di me non ne vanno la politica. No, ma l'interessante è che abbi risolto la natalità. Sì, risolto, bisogna vedere, ma quando telefoneggio si viene disponibilità, capito lei cos'è il discorso? Ma quello l'hai perso l'appuntamento. L'ho perso sì, perché la visita è il 7 e l'impegnativa scadeva il 5, quindi l'ho perso sì l'appuntamento. Boia. Magari lo trovi, dai. Tu domani mattina presto chiamo. Un macello è già, cosa vuoi ci dica? Adesso già rido se non lo trovi. Infatti, è quello il discorso. Dovrai aspettare, se non ce n'è adesso devi aspettare. Ma magari c'è ancora, capito? Non è detto che tutti facciamo le stesse visite, no, Natalia? Guarda, sono una settimana telefonando perché non c'era disponibilità. Era Secca Bianca dove mi stanno seguendo, non ne ho trovato. C'era questa qui a Porto Torres. Capito? Io ho detto vabbè, lo faccio lo stesso, però mi ha detto è il 7, lì gli scade l'impegnativa il 5. Mezzi di dura, quella urgente, capito? Cosa vuoi ti dire? Ma essendo urgente non dovrebbero trovartelo il posto, scusa. Ma se non ce n'erano, non ce n'erano, non c'era disponibilità, sono una settimana che sto combattendo, ogni giorno. Sì, già lo so, perché quando anche devo fare le visite così, o non rispondono, o guarda, al telefono stai 3 ore, ti fanno aspettare con la musichetta, ti fa bene nervoso. Pasco, mi è capitato pure che uno mi abbia risposto, no? E come mi ha detto, mi dia nome e cognome, gli ho dato nome e cognome e mi ha sganciato. Non lo so io adesso cosa devo pensare. Invece a me una volta mi ha detto che mi ha chiesto il nome e cognome la tipa e mi ha detto che non c'erano posti. Dopo 10 minuti mi telefona a casa e dice sì, non me lo sì. Ascolti, lei voleva il posto per sì. Guardi che se ne è liberato uno, se lo vuole glielo do per domani, ogni agganna. Ma cosa vuoi ti dica già? Non ne comprende buono. Dopo dice uno perché si nervosisce. E la mia dottoressa è chirurga vascolare, però non ha gli strumenti e non può fare nulla. Capito? E io ho fatto l'attacco per questo coso qui pure. Ma io non lo so cosa cazzo. Vabbè, vediamo un po' adesso come si piazzano, perché le chirurghe della Secca Bianca mi hanno detto loro non ci possono fare niente, perché non dipende dalla gamba, dipende dal coso addominale che c'ho, dipende da lì, e dice che loro non ci possono fare nulla. Ho capito. Sì, va bene, Natali, ti sei facendo la testa per la rotta, magari domani lo trovi, dai. Sì, piremmo. Speriamo che non si dimentichi questa di farmi l'impegnativa. No, non si dimentica. È l'amica di Concetta. Ah, sì. Non si dimentica, vedrai che già te lo fa. Te lo precisi loro con gli appuntamenti. Con le cose sono abbastanza allenate con la mente, non è come noi, no, che ci dimentichiamo da un momento all'altro le cose. Lui ne ha altre da fare per conto della dottoressa del centro antidiabetico, pure da fare. Lei dice che è l'appuntamento a marzo. No, adesso me le prenoto tutte, al telefoneggio tutti quanti, così faccio gli appuntamenti, ando di vostro, se no è un macello. E speriamo che trovi il posto per quelle lì mie anche già. Dai, se domani chiami presto oppure all'ora di pranzo ti conviene, che non chiama mai nessuno a quell'ora. Io chiamo o presto all'ora di pranzo di mattinata e non vi voglio abbigliare la linea, è un casino, sei preoccupato. E domani presto non ce la faccio, perché se non ho l'impegnativa con cosa telefono. adesso bisogna vedere se me la lascia da Pisano l'impegnativa questa qui, così con certa va e me la prende. Già me lo scrive. Perché oggi era di sera, cazzo, e io gli ho lasciato il messaggio stamattina, ma Nisba, adesso stava anche visitando, è un favore che mi sta facendo. Ma vediamo un po', se stasera me la lascia da Pisano, domani mattina Concetta va e allora di pranzo telefono. Allora oppure, anche prima telefono, se riesco a prendere la linea almeno prenoto e via. E glielo dico che mi sono fatto rifare la cosa. Beh. Vediamo un po'. Ma dimmi tu, cazzo. Ti vedo che ha gumbata con un gufo. Dai, tutti così, non è che si sono. Tutti siamo così. Io non tremo quando devo prendere qualche appuntamento. Ehi, l'altra volta per l'endocrinologo sono dovuto andare a Tivisi a farmi la visita. Ma dimmi tu. Ma io così lontano non la prendo. La parola è sassa, ma ho a Porto Torres lo stesso. Questo dottor Melici mi aveva già visitato a Porto Torres, ma non ha calato bini. Allora giù va tu, chi c'è un giottacco ho fatto e c'è il referto e il dischetto. Voglio vedere. Io sono andato per farmi una visita agli occhi da Grimberg, professor Grimberg. E lo stesso devo fare la visita oculistica, io devo fare quella cardiologica pure, mi sa. Beh, adesso le guardo domani e me le metto davanti, così ti piglio tutti gli appuntamenti e boh. Ando da Gosu, barra visita cardiologica, da Maroncio, che c'ha tutto il coso nel computer, quello lì. Così mi la vado, impressa. Devi prendere la tua. Guarda che da Maroncio puoi chiamare anche direttamente, se sta a metterti tramite il CUP. Infatti già lo so. Prendo il numero e il telefono. Adesso vedo se c'è la visita, adesso non me lo ricordo che visite erano. Quella culistica è tramite il CUP però. Però c'è. Sì, io l'ho fatta a Porto Torres come culistica. È bravo quel professore. No. Ma pagami. Deve essere parente del professore di Virgilio Grimberg, non so se te lo ricordi, quello con gli occhi chiari, che aveva capelli biondi, tedesco. Sì, evidentemente è parente suo, siamo lo stesso cognome. Ma vediamo un po', dai. Basta. Vediamo un po'. Adesso dopo le cerco le impegnative che ce le ho. Quelle del sangue andiamo in Oramara, si veda pagare il bagu e basta. Se fa latte dolce, perché devi pagare? E perché ti fanno pagare anche al latte dolce, lo sai. Basta! A me non mi hanno mai fatto pagare, le ho sempre fatte e non ho mai pagato. E adesso invece stanno facendo pagare a tutti. Ma i primi! Perché deve essere che i soldi, no! Deve essere che non li stanno pagando lo Stato! Cazzo, non ha compreso! Ma cosa l'ha giù pagato tutti e due questi soldi? Sì, che... no, una volta. Questa volta solo non l'ho pagata. Però tutti gli altri li ha fatti pagare. A chi era un esame solo, visto mi doveva fare. Per fare la cosa all'angiottacchi ci voleva la creatinina. Quella lì non l'ho pagata. Però agli altri, a tutti li ha pagamento solo. E se non c'è soldi può anche crepare così. Infatti. Ma non lo so, si dice a visitare dal chirurgo vascolare, me la fanno quando sono morto. Esagerato. Intanto uno vira rugu, fa una guida quasi. Cazzo, stamattina trovo il posto a Porto Torres, e mi scade la cosa, perché ce l'ho, l'appuntamento era per il 7, però mi scadeva il 5 l'impegnativa, ma è un'ora buona. Magari se ci andavi provavi, magari te l'accettava. No, no, perché c'era la B, era quelle con priorità breve e dura 10 giorni, dura quella lì. l'urgenza addirittura non esiste più, perché deve passare per il pronto soccorso. Urgenze non ne possono scrivere più loro, i dottori. Sì, sono cambiate mille cose, però sto a cuore nostro sempre. Sì, infatti, non so quanti medici mancano, cazzo. Cristina, lo sai cosa mi ha detto? Che non ne fanno neanche concorsi e non ne tolgono neanche il numero chiuso per fare i medici dalla facoltà di medicina. Una vergogna. Una vergogna. Questa qui, adesso Cristina deve mollare il marito qua a Sassari e lei se ne deve andare a Pavia, perché dice che a Cagliari non sta imparando niente. Dimmi tu, perché lei di Pavia, c'è un bel centro lì a Pavia, e andrà lì per prendere questa specializzazione. Natale, se ne ma che è quel dottore che abita vicino a casa tua, la moglie, la ragazza? No, la moglie, che si sono sposati. Quando quando è partita in continente mia moglie, perché si sono sposati. Travaglia a Sassari, che è psichiatra infantile lui. Praticamente la moglie sta prendendo la specializzazione, però stava lavorando a Cagliari lì. Siccome a Cagliari dice che non impara in di nuda, si sarebbe sia a Pavia, chiccia. Dimmi tu, e mo la Romari di Noca Sassari. Sì, è casino. E quando c'hanno questi tipo di lavori, devi spostarti e cose. Io avevo un'amica lo stesso che aveva lasciato un ragazzo qua perché è andata fuori a fare pratica e poi alla fine questo rapporto di lontananza, alla fine si sono stufati e si sono mollati. E questi si sono sposati a settembre, si sono sposati. Certo che sono sacrifici grossi. No, lui il trasferimento là non lo può chiedere. No, e cosa tanto da lui magari da se ne dorra in occhi. Compreso. Andà a pigliare la specializzazione, da interesse a pigliare la specializzazione, perché già la dottoressa lì deve prendere la specializzazione. È per quello che sta andando fuori. E per fare pratica, sì. Ho capito che è per quello. Come Manuel ha fatto il triennio, poi ha preso la specializzazione fuori. Figurati. Ci siamo sopra 40 anni e studenti, si deve pigliare pure la specializzazione per poter esercitare, capito? No, un casino. Poi non fanno i concorsi, me l'ha detto lei, i concorsi non ne fanno. E quindi non possono essere assunti questi medici qua. Dimmi tu, con tutti i medici che servono. Cioè uno studia all'università e poi non trova lavoro, un casino. E allora? Anni e anni persi studiando, cazzo, e poi è un casino trovare lavoro. Ma dimmi tu. Cosa vuoi fare? Un casino, non sai mai come ti devi comportare, poi si lamentano se i dottori vanno fuori a lavorare. E il fratello di cosa? Non se n'era andato in America? Se n'è andato in pensione, se n'è andato e se n'è tornato a Sassari, però era sempre in America quello. E chi c'era un cranio mi? E si è fuggito in America. Sì, perché si fanno i migliori sempre, capito? Perché qua prima di tutto li pagano poco. Se vanno fuori gli danno il doppio di quello che prendono qua. Se andano in Germania a pigliare 4 volte esatti di chi sono che pigliano i nonghi. Allora cosa vuol dire? 4 volte tanto. Pensa tu in America. E ognuno guarda la sua riconvenienza, avanti il fischio, avanti il cardellino, non ce n'è di scagliola comunque. E non sanno come rompere le scatole. Ho sentito un bar agricolo l'altro giorno, ci ha venduto tutte le pecore. Oh. È morto il padre, ci ha venduto tutte le pecore, adesso sta lavorando col cognato al McDonald's che ha fatto la porta d'ottone, ci fate, mi ha chiamato per vedere se voleva entrare a lavorare da lui, ho detto no, io sono in fine, ma sono in pensione, non lavoro più, io non posso lavorare, perché stavo pensando a te che tu c'hai il curriculum eccetera eccetera, ci serve una persona che sapeva lavorare, dai. Io capisco. E a me lo stesso, io ho versato la patente, ho dato il mio uscito al lavoro, ma dimmi tu. Io aspettate adesso non sei in grado, Natali, prima penso a partire quello per la salute. Anche quello c'è già, è vero. Ma cazzo, aggiungo la dura patente, ma cosa mi gustava troppo. Adesso mi esce il lavoro, ma vaffanguala. Vabbè, cosa vuoi fare? A fare l'autista. E allora? Dimmi tu. Ma. Ma che tal? Io tutta la vita cercavo di giocare a travaglio, me l'hanno offerto adesso che sono in pensione. E adesso sono un baravicolo, la madre è morta, il padre è morto. Dice cosa devo fare, le pecore, tutto quanto. Ho venduto tutto. E allora ma cosa ha fatto un po' di dino? Ma poi ha detto che se ne andava col cognato a lavorare, capito? Poi una volta che se non ci vuole più restare, si fa in fretta a mettersi dopo le pecore, il terreno ce l'ha, c'ha tutto. Allora. Te la ragazza non te l'è fatta, no, non è una ragazza. Ma se tu vedi su Facebook cosa c'ha di donne, una più bella dell'altra, di quelle polacche, quelle tutte belle sono. Sì, tutte belle, ma sono magassone. Non lo so, io non le conosco, però sono tutte belle donne. Sì, ma sono tutte di quella razza lì, sono tutte aghi di brighi, non ti preoccupare. Guarda che ci sono anche quelle serie che lavorano e fanno le badanti, non sono di quelli. Ci sono quelle che fanno le badanti, sono ragazze tranquille, dai. Cavagava. Dimenticate le ragazze tranquille. È perché hanno trovato a fare quel lavoro lì e buh. A chi si non fa zenidi da manira? Quelle tipe lì sono anche di brigi, non hai compreso? Tutti chi si caggiù con i io, bellissime ragazze, bellissime, tutti anche di brigi. Era, capito. Ne ho conosciuto tantissimi io di quella razza lì, dell'est. Tu ne conosciuti io anche a Butte, però non erano di quelli che dici tu. Lavoravano, erano persone normali. No, io sto parlando di ragazze proprio, non di femmini manni. Una ne aveva 45 e l'altra vabbè ne aveva 55. No, e vabbè, le ragazzine stai dicendo. E allora? Che chi si erano gli affemmini, cosa? Sì, madre di famiglia e tutto. Con il marito che è morto, eccetera, però sempre persone come si deve, dare tranquilla. Vabbè, perché non ho capito che qua chi fa i soldi, la vita costa poco, si comprano case, si comprano questo, si comprano l'altro, la vita è meno cara e quindi in Romania no, in Romania la vita è cara perché io canto con una tipa che è romena, mi ha detto che la vita è cara, peggio di qua. Sì, in questi ultimi tempi è diventata cara, prima già era tranquilla. Vita là. Adesso in questi ultimi tempi è logico che essendo entrati nella comunità europea lo diventate a livello di noi. Cioè no, io pensavo detto che, sì, che non fosse così, che fosse diciamo più tranquilla la vita. No, è cara più di qua. Lei abita qua adesso da 10 anni e in Romania ha detto che è più cara che qua, che quando va in Romania va a comprare una cosa e la paga una banca di soldi. I pomodori a 4 euro ha detto. Io via. Se sei mandando di me. Io una volta ho trovato dei pomodori che si chiamano pomodori di campo. Guarda, sono così dolci, così buoni e costano 1 euro e qualcosa. Gli altri costano tutti sopra i 2 euro. Capito? Questi pomodori di campo sono saporitissimi, buoni e costano poco. Ne capisco. Io comunque con i pomodori freschi, cazzo, mi facevo il suo, cazzo, il poco che ci va buono, altro che oia. Io anche io lo faccio su col basilico, con i pomodori freschi, lo faccio con passa pomodori. No, io senza passarli. Qualcuno se ne ha l'inghiduriditi, tipo il mio vicino. Io ieri, quando è domenica, l'ho fatto con l'aragosta al sugo, guarda da poco buono. Ma l'aragosta muro 100 euro goccia, dici. E io non l'ho pagata nulla, a me me ne hanno regalato due, un amico che va a pescare me ne ha regalato due. A te allora, a chi sei andato a comprarli, vi vorrò un biglietto da 100. No, non è compro io l'aragosta così, no. Mi hanno fatto un regalo perché io ho fatto dei favori e mi hanno regalato questa roba. È venuto con due aragoste, vive, le ho messe, le ho dentro un coso di nano, le ho messe in frigo da vive e le ho fatte domenica quando c'era Marco e Maurizio qua. Le ho fatte il sugo con l'aragosta, le ho spaccate in due, le esce due poco buonsi. Me lo posso immaginare, già. Io l'ho mangiato parecchie volte così. Però io ne ho fatto abbondante di sugo, no? L'ho fatto abbondante, quello che è avanzato, l'aragosta, il pezzo dell'aragosta me l'ho mangiato di sera, che era avanzata, perché erano due, l'aragosta noi eravamo in tre, mezza per una ne abbiamo mangiato. E un pezzo me l'ha avanzato la sera, me l'ho mangiato, poi il sugo che è avanzato, che era un bel po', me l'ho messo in un recipiente, l'ho messo in freezer, la vaga devo fare la pasta, mi rimosso col sapore della ragosa, buco è buono. Sì, te credo. Sì, sì, è proprio buono così. Ma no, anche di granchio è buono, l'hai mai fatto col granchio il sugo? No, la verità no. Tu prendi quei granchi grandi, quelli... grandi, quelle le grasse o le grosse, prendi quelli lì, li spacchi in due e li metti nel sugo e lo giuccio che va dritto va tutto nel sugo, poi c'è solo poco vuoi. A me le granchi non me ne frega nulla perché non è che mangi molto col granchio, però il sapore che gli dà è buono. Che cosa di grosso deve essere successo? Due volte la polizia è passata adesso, a distanza di poco. Ci sarà le tue raffaventi. Cosa ne so, mi nobili succedono tutti i rigurori già. Adesso hanno fatto una riunione tra associazioni per prendere provvedimenti per queste cose che stanno succedendo. Qua si stanno mettendo a sparare pure, non solo d'altro. Chi ci sono questi cazzo di nigeriani? Già lo so, ho sentito tutta la storia, stavano dicendo che c'è questo tipo di colore che frequenta lì vicino a San Martino dove abiti tu e l'hanno picchiato in 12, questo qui è andato con la pistola e ha sparato e gli ha sparato nelle case loro, però non, meno male non ne ha preso manco. Sì. Dimmi tu a che punto stiamo arrivando. Dimmi tu se qualche proiettile l'aveva preso di quelli vaganti, avrebbe preso qualche persona che non c'entrava niente. E infatti stanno diventando un pericolo pubblico, da lì bisogna mandarli tutti via, non da lì, no, da Sassari, i cudici di Bura, tornare al paese loro, tutti quanti, perché ti minacciano pure qua, sono cattivi questi nigeriani. E infatti bisogna mettergli il timbro ospite indesiderato, così non può mettere più piede in Italia. Capito? Nei documenti bisogna mettergli quel timbro lì, ospite indesiderato, cioè riferito fuori. Perché i senegalesi sono bravi, se non li rompi le scatole sono tutti bravi, io ne conosco diversi, conoscevo Omar, quello che vendeva fuori del negozio nostro, che scherzava sempre, mi chiamava Giannaniglia, Giannaniglia, come diceva lui. Tu ricco, perché mi vendeva in moto, in macchina, diceva che ero ricco. Enrico Busato, insomma, c'era un travaglio, già sono ricco, sì. E lui era bravo, poi c'era Mare di Buco che era un amico. E già lo so, i senegalesi sono più educati, sono travagliatori, poverini, sono travagliatori, non so come intendete magnacci, gazza chi, tutti i ribecchi di anche i garaniti, i nigeriani, gazza, ma li faccia a puccia. Perché dice che sono già delinquenti da quando ho fatto la capita, sono delinquenti, là li puniscono, i chimici fanno qualche cosa, di tagliare le mani, mi. Non è che, ma è un amico mio che adesso vabbè non c'è più, mi ha detto che era andato in Africa a lavorare, e ho visto questo palco in mezzo alla piazza e tutti quanti che acclamavano e stavano tagliando le mani a questo qua che aveva rubato in una gioielleria, ce l'ha fatto vedere dei gioielli, quando si è girata la proprietaria gli ha rubato i gioielli, questo ha denunciato e l'hanno tagliato le mani davanti a tutti, tutti acclamavano. Quindi la legge del taglione hanno applicato, capito? In chi mi sono fidiati? Noi così no, avevamo una cosa di sicuro in galera e ce la fanno i giavini e non sono le gallerie di qua, perché qua sei in vacanza a confronto alle gallerie che ci sono fuori. Vabbè, ma infatti là ci pensano due volte a fare queste cose, non lo fanno spesso, ci tenta qualcuno ma poi se finisce male si arrallenta. E se no vai in Corsica, lì i carceri francesi, lo sai quanti sono? Tauraccio, non viene lì tu no? Prima i carcerati mi venivano trattati male, adesso è che gli stanno dando tutto per il bisogno, questo e quell'altro, ma prima chi era in carcere era proprio punizione al 100%, stavano male, li trattavano male apposta. Ehi, se ti sto dicendo, in Francia, se ti arrestano in Francia, il carcere è carcere a vero, no? Come te inoghino. Ma solo il fatto di non essere libero la tarì deve essere una cosa, mamma mia, non ci voglio manco pensare. Infatti ti fa finisci all'aria un'ora di scendi tutto. Sì è così, adesso stanno bene, a mancare per dire stanno bene. Davvero come hai detto tu, come Alberto, l'unica cosa che c'è è che gli manca la libertà. Sì, infatti, però nelle carceri italiane, con tutte queste rivolte che hanno fatto, hanno ottenuto tante cose che nelle altre carceri degli altri paesi non esistono. La galera è galera, non come in Tenochi, non chi sei in vacanza confronto agli altri paesi. Ci sono anche tanti innocenti, quello è, che magari un innocente non deve pagare come se fosse colpevole. Quelli sono gli errori giudiziari. Sono errori che ti rovinano la vita. E questo è poco ma sicuro. E poi c'è anche il fatto che essendo innocente è peggio, capito? Tu sai di essere innocente ma loro pensano che sei colpevole, quindi ti trattano come colpevole. Sì, infatti. Anda bene meda. Andiamo a magno e da voi mi ti go. Tanto sono già risetti a che cosa, non c'è già per parenti. Non è presto per mangiare. No, mangio presto io, se no da voi di vasità troppo, ma fammi l'insulina. Mi ti go come e mi vai di un po' di televisione. Compreso. Non me la posso più a guantanno. Già. Prima già agguantavo, ma va. E io sono lo stesso, se mi guardo un film, a metà film mi trovo nel divano e poi mi sveglio di domani mattina. Invece io sto tutta la notte sveglio, almeno tu dormi. Se io dormi due, io dormo poco e mari. Ma... No, io crollo proprio, non ce la faccio a guardarmi un film. Se è qualche cosa tipo paranormale che mi guardo su YouTube che mi imporra forte, è bello, e mi attira il paranormale, perché vedi cose che fanno gli spiriti, i sassi che lanciano, fanno scappare la gente, c'è anche gli spiriti marini che fanno queste cose, ti prende. Lo riguardo io ogni tanto questi filmati. No, io di sì, proprio non ha mai tu. Mi piacciono quelli gialli, quelli di azione, ma altra roba non ne guardo. Quando li posso guardare? A chi si sono filmi che fanno paura, mia moglie mi fa girare e non me ne fa manco guardare. Fatti un conto, raga, punto sopra. Allora, Profondo Rosso ti presto, Natale. Sì, e me ne fa guardare. Ti ho messo il blocco. No, no, proprio... Hai che paura, gira. Allora, abbiglia mi si trovo, tanto posso dormire. E se no rimango nel dormiveglia e sto tutta la notte a andare e torna. Puccica. No, c'è vita del fatto che tu cavolo. No, io già dormo. Io mi avevo questi muraturi, c'è ancora gente che sta lavorando, l'appartamento di sotto, l'hanno smantellato tutto, tubazioni, mattonelle, sono più di 5 mesi lavorato. E tu ti puoi immaginare, trapano, a volte me ne devo uscire perché non si può stare, vibra tutta la casa, ho già lo trappo demolitore, trapano, di tutto e di più, martelli, colpi di mazza, lui, guarda, non si poteva stare. E adesso un po' si è calmato, adesso ti stanno mettendo gli infissi, quindi un po' si è calmato, sì, il trappano stamattina l'hanno usato, deve essere per abitare, fa. Ma guarda, una cosa che non si può stare, avevano messo 3 mesi, stavano 3 mesi, sono già 5 mesi e più. Io ma te se no che ha giù ristrutturato, tutto, ha giù fatto i muri, ha giù pitturato, da voi. Si è accerata la iatta del dirimpettaio, si è fatta, non so quanto è bello quel gattino. Più bello di quello che avevo io. No, la tua è di razza, chi c'è? Bianca e niente la iatta, mai così bello, fa 5 mesi va, piccolino è mio. Musetto, come si chiama? Michi si chiama. Il mio era bello, sì, il mio era veramente bello. Purtroppo 19 anni ha durato il mio, e a chi dura non me 21, visto di che io sappia quello di mio fratello Fuffi aveva durato 21 anni aveva durato, però non lo so se è ancora vivo, non penso, no, sarà Murcio. Ciao da Toni, ragazzi. Ah, buonasera, chi è? Toni. Ciao Toni, buonasera, da dove? A Sassari, dietro le Mazzini, volevo sapere se sentiva. Diciamo che non sei fortissimo, però comprensibile, dai. Non ti garanto l'antenna, ma è qui. Arrivi Santiago 7, ma la radio è un po' bassina, dai. Dove l'ha messa l'antenna, che antenna c'hai? Ho la turbo, ma è la piegata. Cosa c'è, la turbo 2001? Sì, però non si porta. Sì, ho capito, fammi il turbo. Però vedo che mi copi bene, insomma. Sì, adesso si sente a Gonove, dipende dove sei, ti stai muovendo. Di Roma Tribunale. 9.5 adesso. Benissimo. Ragazzi, vi lascio chiacchierare tranquilli, era un'altra roba radio e farvi un saluto perché sono sempre con la mia in viaggio e via per un sorgere e tutto. Gappa. Vabbè, portami qualche rumena, dai. Buon. Ciao, scherzo, dai. Buona serata, dai, buon proseguimento. Non ho capito chi era l'amico, già, lo sentivo bene anch'io. Toni era... è un amico che fa il viaggio in Romania, deve portarmi a Romania. E vai, se la trovo te la porto. Ehi, dilli lui, una a me e una a te. Tu mi dai la Bonini. Cosa entra lì su? La Bonini di scorta. Devo mettere i rudici. Vabbè già, io ti lascio che sto per mangiare, dai. Ci sentiamo alle prossime. Vai a mangiare. Ehi, Natale, ci siamo, dai. Buona serata. Ciao già, buon proseguo, dai. Io mangio. Perché sono anche stanco.